Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrer. Traduzione di Francesco Bergamasco. Quando Edoardo arriva a casa di Zalatariov, scopre che il trapper è stato sepolto il giorno prima. Una donna che usciva per portare a spasso il cane lo ha trovato morto all'alba ai piedi del palazzo in cui abitava. Una finestra del suo appartamento al quarto piano era aperta. Suicidio? Incidente? Omicidio? I Nazbol con cui l'uomo ha trascorso la sua ultima serata garantiscono che non era depresso e che quando se n'è andato non era ubriaco. Edward sgualcisce nervosamente nella tasca la tessera del partito che voleva regalare a Zalatariov. Si sente mancare il terreno sotto i piedi. La notte successiva accade qualcosa di strano. Come stabilito, Edward si è messo in viaggio assieme a due Nazbol silenziosi quanto lui, frastornati dall'accaduto. È immerso in pensieri cupi e non bada a nulla di ciò che lo aveva incantato durante il viaggio precedente. Né al cielo sconfinato, né ai paesaggi ridotti sotto quel cielo sconfinato alla loro dimensione più elementare, né al caravanserraglio in cui fanno una sosta per il tè, né ai volti nobili e ascetici dei montanari che gli danno ospitalità. I tre trascorrono la notte nello stesso luogo in cui si erano fermati l'ultima volta. Sarebbe esagerato chiamarlo villaggio, qualche yurta e un capanno di legno, nel quale Edward si ritira subito a dormire, senza cenare, senza dire una parola. Per fortuna i Nazbol hanno la loro tenda. Edward è solo. Steso sulla branda, pensa ai morti, a tutti quelli che ha conosciuto nel corso della sua vita e che sono morti. Cominciano a essere un bel po'. Pensa che se facesse il conto dei morti, supererebbero i vivi, ma non ha il coraggio di farlo. Non ha nemmeno voglia di dormire, soltanto di starsene lì e non muoversi più. Pensa che morirà anche lui e stranamente è come se fino a quella sera non ci avesse mai pensato. Ha spesso fantasticato su come gli sarebbe piaciuto morire, in combattimento oppure fucilato, giustiziato per ordine di un tiranno che avrebbe sfidato fino all'ultimo respiro, ma adesso si rende conto che tutte quelle fantasie non hanno nulla a che vedere con la certezza che si è impadronita di lui. Sta per morire. Pensa alla propria vita, alla strada percorsa dalla sua infanzia a Saltov fino al capanno nell'altai in cui, a quasi 60 anni, è disteso quella sera. Una strada lunga, piena di insidie, ma lui ha tenuto botta. Ha voluto vivere da eroe, ha vissuto da eroe e non si è mai tirato indietro, qualunque fosse il prezzo da pagare. Pensa a una cosa che gli ha detto il trapper l'autunno precedente. Quel posto, secondo la tradizione buddista, è il centro del mondo, il punto in cui comunicano il mondo dei morti e quello dei vivi. È il luogo che cercava il barone von Ungern Sternberg e ora lui lo ha trovato. Dalla finestra Edward vede brillare la luna piena sopra le colline scure. Sente una musica, prima lontana, poi sempre più vicina. Gong, trombe, canti intonati da voci cavernose. Sembra quasi la colonna sonora del bardo Todol, il libro tibetano dei morti, che ha scoperto anni prima grazie a Dugin. Quel bastardo di Dugin, pensa Edward con indulgenza. Nonostante tutto sarebbe contento di ritrovarlo nel paradiso dei guerrieri, sempre che vi accolgano un fifone come lui. Edward si chiede se sta scivolando nel sonno o nella morte. Gli sembra che lì fuori si stia svolgendo una cerimonia, forse un rito di iniziazione sciamanico. In un altro momento nulla gli sarebbe interessato quanto assistervi, ma ora un po' per discrezione nei riguardi degli ospiti e parecchio perché non ha voglia di muoversi, resta sdraiato, avviluppato in quella musica dell'aldilà che si confonde con i suoni provenienti dal suo corpo. Il sangue che pulsa alle tempie, che viene pompato dal cuore, che circola nelle vene. Edoardo non dorme, non si muove. È come se fosse morto o avesse avuto accesso a un'altra forma di vita. Il mattino dopo chiede ai Nazbol se abbiano assistito alla cerimonia. Quale cerimonia? Non ci sono stati né feste, né concerti, né riti sciamanici, niente di niente. Dopo cena sono andati tutti a dormire. Se si cerca la vita notturna, scherzano i suoi compagni, non è certo nell'altai che bisogna venire. Edward non insiste. Per il resto del viaggio continua a riflettere, ma non si sente prostrato come il giorno prima. Pensa che quella musica celeste e quell'esperienza dell'aldilà siano state un dono di Zalatarjov e l'annuncio di qualcosa. Forse la sua ascesa al trono d'Eurasia, che conquisterà insieme a quella manciata di Nazbol dopo il ritiro sulle montagne, riuscendo dove ha fallito il barone von Ungern Sternberg. Forse il suo imminente ingresso nel Valhalla, cioè la morte. Ma lui non ha paura della morte. Non ne avrà mai più paura. È passato dall'altra parte. I tre Nazbol rimasti sulle montagne sono ben contenti di vederli arrivare. Hanno una buona cera, abbronzati, ascetici, dei veri monaci guerrieri. Dal loro portamento, dalla loro voce, si capisce che sono maturati. La serata, su cui aleggia l'ombra di Zalatarjov, è insieme grave e allegra, meravigliosamente distesa. I ragazzi raccontano il loro inverno, i momenti di sconforto, quelli di entusiasmo, il giorno in cui uno di loro si è trovato faccia a faccia con un orso. Su lunghi bastoni di legno sono stati cotti gli shasliki, gli spiedini di pecora che si mangiano nel Caucaso e nell'Asia centrale. Bevono un po' di vino, portato da Bernaul nel bagagliaio, ma non si ubriacano. Raccolti sotto la lampada a petrolio, i sette uomini si godono quell'atmosfera pacata, amichevole. Edouard, così poco sentimentale, vorrebbe dire a quei ragazzi, così giovani da poter essere suoi figli, che sono le creature più nobili e coraggiose del mondo. Si sente insieme lontanissimo e vicinissimo. In vita sua non è mai stato così espansivo. Tempo dopo, penserà che l'ultima cena deve essere stata qualcosa di simile. Allo spuntare del giorno viene svegliato da un abbaiare di cani. I Nazbol non hanno cani con loro, ma Edouard non ha il tempo di stupirsi. Tutto avviene con estrema rapidità. Gli uomini delle forze speciali irrompono nel capanno, strappano i dormienti dai loro sacchi a pelo, li costringono a uscire e a inginocchiarsi nella neve che al mattino, su quelle cime, non si è ancora sciolta. Gli agenti sono una trentina, con passamontagna e mitra al fianco, e tengono al guinzaglio i cani lupo che fanno un baccano infernale. Edouard ha perso gli occhiali e si muove a tentoni. È in mutandoni di lana, a piedi nudi. Siccome è il capo, gli viene concesso di vestirsi per primo. Il soldato che ha il compito di scortarlo nel capanno ne approfitta per sussurrargli che adora i suoi libri e che è fiero di arrestarlo. Lo dice senza la minima ironia. Sembra davvero fiero e contento, manca poco che gli chieda l'autografo. Poi si passa alle cose serie. Dove sono le armi? Quali armi? Non faccia il finto tonto. La perquisizione è meticolosa. Hanno i cani e un metal detector, ma a parte i due fucili da caccia non viene trovato nulla. E qui confesso il mio stupore. Sarebbe stato così facile imboscare nel capanno qualche arma. Diamo atto all'FSB di questo scrupolo legalitario. Con le mani sulla testa, i cinque Nazbol vengono fatti salire senza tanti complimenti su un furgone militare. Edouard invece si accomoda nella berlina del colonnello Kuznetsov, un colosso con Ray-Ban a specchio che non si toglie mai. Appena scompare dal retrovisore l'eremo devastato, questi estrae dal frigo portatile vodka e zakuski. Ora ci si può rilassare. Ci sono 8 ore di strada fino al comando dell'FSB di Gorna-Altaisk, dove i prigionieri sono attesi da un aereo speciale. Trattamento da VIP, commenta il colonnello. Entusiasta per il successo dell'operazione, Kuznetsov manda giù un bicchierino dopo l'altro e insiste perché Edouard gli tenga compagnia, e il prigioniero beve, ma con molta più moderazione. Alla seconda bottiglia il colonnello spinge la cordialità fino a dire che da quando ha cominciato a occuparsene i Nazbol sono diventati un po' come la sua famiglia. Edouard è sorpreso, pensava di conoscere l'ufficiale che si occupa di loro. «Oh no», dice il colonnello, «quello è uno senza palle. Il caso gli è stato tolto 2 anni fa. al tempo della vicenda di Mikhail Koff. È stato lui, Kuznetsov, a darsi da fare su richiesta del regista, ed è sempre stato lui, 2 mesi prima, a incastrare i Nazbol in partenza per Riga. Una provocazione, dice Eduard, non ce l'avevano la droga. Il colonnello scoppia a ridere e con aria complice ribatte. Certo che no, un bello scherzo. Eduard allora si innervosisce, e quando si innervosisce la sua voce si fa brusca e spezzata. Non avete avuto scrupoli, gli dice, a inchiodare dei ragazzi che lottavano per tirare fuori di prigione uno dei vostri. Se vi vedesse Felix Dzerzhinsky, il vostro fondatore, si rivolterebbe nella tomba. Lui sì che era un grand'uomo, mentre voi, sapete che cosa siete voi? Dei pezzi di merda, indegni di essere chiamati cechisti. Il colonnello potrebbe approfittare della propria posizione di forza per rispondere all'insulto, ma ad un tratto è diventato mogio. Sembra sul punto di piangere. «Perché non ci vuoi bene, Veniaminovic?» sospira l'ufficiale. «Perché uno come te non sta con noi? Potremmo fare cose eccezionali insieme. Vuole reclutarmi?» Kuznetsov gli porge la mano. Ha bevuto, ma sembra sincero. Eduard alza le spalle. «Va a farti fottere». Nono. Lefortova, Saratov, Engels, 2001-2003. Eduard lo ha sognato per tutta la vita. Quando da piccolo leggeva il Conte di Montecristo, quando una notte ha sentito suo padre, all'epoca in cui faceva lo sbirro, raccontare alla madre la storia di quel condannato a morte così coraggioso, così calmo, così composto, che è diventato l'eroe della sua adolescenza. Per un uomo che vede se stesso come l'eroe di un romanzo, la prigione è un capitolo imprescindibile. E sono sicuro che, lungi dall'essere afflitto, Eduard si è goduto ogni istante, stavo per dire ogni inquadratura, di questo film visto 100 volte. La consegna degli abiti civili e dei pochi effetti personali, orologio, chiavi, portafoglio, la divisa ricevuta in cambio, simile a un pigiama, la visita medica con ispezione anale, il percorso attraverso lo sterminato labirinto dei corridoi con 2 guardie al fianco, la successione delle sbarre dei portoni, infine la pesante porta di metallo che si apre e poi gli si richiude le spalle. Ecco, ci siamo. È in questi 8 metri quadrati che dovrà vivere per alcuni mesi o per alcuni anni e, come in guerra, dimostrare quel che vale davvero. A Eduard non è stato riservato un trattamento da pesce piccolo. L'hanno rinchiuso a Lefortova, dove vengono mandati i più pericolosi nemici dello Stato. I grandi prigionieri politici dell'Unione Sovietica e poi della Russia, i terroristi di grosso calibro sono tutti passati di lì e non è difficile prendersi per la maschera di ferro. Ancora oggi, questa fortezza del KGB, situata nei dintorni di Mosca, non è riportata su nessuna pianta della città e il segreto che regna su di essa è tale che all'inizio Eduard ignora totalmente di che cosa siano accusati lui e i compagni. Non ha visto nessun avvocato, non ha diritto a visite, non sa nemmeno quando comincerà la fase istruttoria, né che cosa si dice all'esterno del suo arresto, se qualcuno ne parla, e neanche se le persone a lui vicine ne sono state informate. A differenza della maggior parte degli stabilimenti penitenziari russi, Lefortova non è sporco, non è sovraffollato, non ci sono stupri né pestaggi. In compenso si è sottoposti a un rigido isolamento. Non soltanto non si è costretti a lavorare, ma, anche volendo, non è permesso farlo. Le celle, singole, bianche, asettiche, sono tutte fornite di televisione, così i detenuti possono guardarla da mattina a sera, e questa soffice dipendenza li fa sprofondare presto o tardi nell'apatia e poi nella depressione. La passeggiata quotidiana si svolge all'alba sul tetto della prigione, ma ciascuno è riservato un recinto di pochi metri quadrati interamente circondato da una rete metallica E per evitare che i prigionieri possano scambiarsi qualche parola da una gabbia all'altra, gli altoparlanti diffondono musica a un volume così assordante che anche urlando a squarciagola non si riuscirebbe a sentire la propria voce. Ma nemmeno questa sgradevole passeggiata è obbligatoria e molti finiscono per farne a meno. Restano a letto, si rigirano contro il muro, non respirano mai più all'aria aperta. D'inverno, quando all'alba è ancora buio e il freddo è tremendo, non esce più nessuno. E le guardie si sono abituate a tornare a bere tranquillamente il loro tè dopo aver dato la sveglia. Così restano di stucco quando il detenuto Limonov pretenderà di fare la passeggiata a cui gli dà diritto il regolamento. Ma fuori ci sono 25 gradi sotto zero, ribattono. Non importa. Per tutta la sua permanenza a Lefortovo, Eduard non rinuncerà neanche un giorno a uscire sul tetto, dove, per una mezz'ora, correrà avanti e indietro come un pazzo sul suo scampolo di cemento, farà flessioni e addominali, tirerà pugni all'aria gelida. Le guardie sono un po' seccate di dover lasciare il cucinino ben riscaldato per quell'unico cliente, però ne sono anche impressionate. Inoltre, Eduard è cortese, non ha sbalzi di umore, si vede che è un uomo educato. Presto le guardie cominciano a chiamarlo professore. Se c'è una cosa al mondo che Eduard odia è perdere tempo. Ebbene, la prigione è il regno del tempo perduto, del tempo che si trascina senza forma né direzione. E lo è soprattutto una prigione come Lefortovo, in cui i detenuti possono contare unicamente sulle proprie risorse. Sicché, mentre gli altri poltriranno a letto, Eduard si alzerà alle 5 del mattino e sfrutterà al massimo ogni istante fino all'ora di coricarsi. Si imporrà la regola di guardare la televisione soltanto per i notiziari, mai per un film o un varietà, che per lui sono l'inizio del rammollimento. In biblioteca snobberà i romanzi facili, quelli che fanno, come si dice, passare il tempo, e chiederà in prestito l'uno dopo l'altro gli aridi volumi della corrispondenza di Lenin, che leggerà seduto al tavolo con la schiena dritta, prendendo appunti su un quaderno. Sono questi gli unici favori che chiederà: un tavolo, una lampada che illumini a dovere e un quaderno. Le guardie sempre più ammirate glieli concederanno volentieri. Con questo sistema scriverà in un anno 4 libri, tra cui un'autobiografia politica e un testo inclassificabile, secondo me il suo libro più bello dopo il memorabile diario di un fallito, Il libro dell'acqua. L'estate precedente, prima del viaggio nell'Altai, impellenti necessità economiche lo avevano spinto a scrivere in un mese quel libro dei morti a cui ho largamente attinto. Lasciandosi portare dall'onda dei ricordi, Eduard vi tracciava il ritratto delle persone celebri e sconosciute che aveva incontrato e nel frattempo erano morte. E benché per rispettare le scadenze fosse costretto a scrivere più di 20 pagine al giorno, l'esercizio gli era piaciuto a tal punto che in prigione gli è venuta voglia di rifare qualcosa del genere. Avrebbe potuto stilare l'elenco dei letti in cui aveva dormito, come Georges Perec, o quello delle donne che aveva conquistato, come Don Giovanni, oppure, da buon dandy, raccontare la storia di qualcuno dei suoi abiti. Ha scelto l'acqua, mari, oceani, fiumi, laghi, vasche e piscine. Non necessariamente acque in cui avesse fatto il bagno, pur essendosi ripromesso da quando ha imparato a nuotare di fare il bagno ovunque sia umanamente possibile. E per come lo conosciamo, non è difficile pensare che raramente sia stato frenato dal freddo, dalla sporcizia, dall'altezza delle onde o da correnti pericolose. Il libro non segue uno schema né cronologico né geografico, ma passa in base all'umore del momento da una spiaggia della Costa Azzurra, dove Eduard guarda Natasha nuotare, a un bagno nel fiume Kuban in compagnia di Zhirinovsky. Eduard ricorda le passeggiate lungo la Senna, quando viveva a Parigi, le sirene delle imbarcazioni che vedeva incrociarsi sul Hudson dalla sua stanza in casa del miliardario Steven, una fontana di New York nella quale ha fatto il bagno ubriaco e ha perso le lenti a contatto, la costa bretone con Jeanne d'Hernalier e la spiaggia di Ostia vicino a Roma, dove è stato con Tania qualche mese prima che vi venisse assassinato Pasolini. Il Mar Nero, durante la guerra di Transnistria. I torrenti dell'Altai, in cui il trapper Zalatarjov gli ha insegnato a pescare. E la grande vasca del giardino del Luxembourg, di cui, all'inizio del suo soggiorno parigino, aveva meditato di catturare le carpe, tanto era affamato. In tutto una quarantina di brevi capitoli, precisi e luminosi, che intrecciano i luoghi e le epoche, ma, nel loro disordine, si dispongono, malgrado tutto, attorno alle donne della sua vita. Anna, Tania e Natasha le conosciamo già. Edoardo ha raccontato in lungo e in largo quanto le abbia amate tutte e tre, come abbia lasciato la prima e sia stato lasciato dalle altre due, come queste lo abbiano fatto impazzire di dolore e come, almeno stando a quel che dice, lo abbiano entrambe amaramente rimpianto perché lui era la loro speranza di una vita fuori del comune. Invece abbiamo soltanto intravisto Lisa e poi Nastia. E so con quanta veemenza lo spirito del tempo disapprovi il debole degli uomini maturi per la carne fresca. Io stesso, a dire il vero, trovo patetico che un sessantenne vada a letto soltanto con ragazzine, l'una più giovane dell'altra, ma non importa, perché così stanno le cose. E il libro dell'acqua è un inno alla piccola Nastia, che quando ha conosciuto Edoardo aveva 16 anni e ne dimostrava 12. Lui le comprava il gelato, controllava che facesse i compiti quando passeggiavano mano nella mano lungo la Neva a San Pietroburgo o lungo gli Enisei a Krasnoyarsk. Nessuno si stupiva perché tutti credevano che fossero padre e figlia. Nastia non era una bellezza spettacolare come Tania, Natasha o Lisa, ma una piccola panca alta 1,58 m, timida, introversa, ai limiti dell'autismo, che sul suo altare di semidei trasgressivi aveva collocato lo scandaloso scrittore Limonov tra lo scandaloso rocker Marilyn Manson e il serial killer Cicatila, lo Hannibal Lecter ucraino. Nastia aveva una venerazione per Edward e questi in prigione ha iniziato ad avere una venerazione per lei. Nel suo libro Edward incastona come fossero gemme preziose i ricordi dei due anni vissuti con Nastia. Lei ora ha 19 anni e Edward si chiede, preoccupato, quale sia la sua vita al di là di quelle mura. Se la ragazza si stia dimenticando di lui, se lo tradisca. Edward si vanta di essere in linea di massima un uomo lucido e realista. Pur ritenendosi personalmente capace di fedeltà, non si fa illusioni su quell'altrui. Non pensa neanche per un secondo che in una situazione simile Tania, Natasha o Lisa lo avrebbero aspettato. Invece Nastia sì. Edward spera che lo aspetti, crede che lo aspetterà, cadrebbe nella disperazione se venisse a sapere che non l'ha aspettato. Ma fino a quando? Il giorno in cui ha varcato la soglia del carcere, Edward era un uomo di 58 anni che non pesava un grammo di più che a 20. Un uomo all'apice delle sue possibilità e del suo fascino, ma nessuno sa quando ne uscirà. E se, nonostante la sua volontà e la sua resistenza, non sarà diventato anche lui, come la schiacciante maggioranza dei detenuti, un uomo distrutto. A Jefortova non c'è l'obbligo di radersi né di tagliarsi i capelli, e Edouard se li lascia crescere per sfida. Quando scrive, arrivano a toccare il tavolo. Se continua così finiranno per spazzare il pavimento. Non somiglierà più a Edmond Dantès del Conte di Montecristo, ma al suo vecchio compagno di prigionia nel castello d'If, l'abate Faria. Edward resterà a Jefortova in regime di stretto isolamento per 15 mesi. Poi, a bordo di un Antonov del governo, escortato da un nutrito contingente di polizia, neanche si trattasse di Carlos o dell'intera banda Bader-Meinhof, viene trasferito a Saratov sul Volga, città in cui avrà luogo il processo. Perché Saratov? Perché è la circoscrizione giudiziaria russa geograficamente più vicina al Kazakistan, dove si ritiene siano stati compiuti i reati di cui Edward è accusato. Quali sono di preciso questi reati? Impossibile non saperlo a Saratov, dove i detenuti devono continuamente declinare non soltanto le proprie generalità, cognome, nome e patronimico, ma anche gli articoli in base ai quali sono stati incarcerati. Così, appena arrivato, Edward impara a sparare a raffica quel mantra che ancora oggi gli sale alle labbra quando viene svegliato di soprassalto. Savienka, Edward Veniaminovich, articoli 205, 208, 222,3, 280. Diamo qualche spiegazione. L'articolo 205 indica il reato di terrorismo. Il 208 l'organizzazione o partecipazione a banda armata. Il 222,3 l'acquisto, trasporto e vendita o detenzione illegale di armi da fuoco. E infine il 280 istigazione ad attività sovversive. Quando incontra per la prima volta il giudice istruttore e questi gli notifica i capi di imputazione e le pesanti pene che essi comportano, Edoardo è combattuto fra l'orgoglio che gli procurano accuse tanto gravi e l'interesse vitale a dimostrare la propria innocenza. Da un lato, gli costa ammettere che una mezza dozzina di nerboruti nullafacenti, chiusi in un capanno dell'Altai, a 100 chilometri dal confine kazako, armati in tutto e per tutto di un paio di fucili da caccia, aveva altrettante possibilità di destabilizzare il Kazakistan quanto di scatenare da sola un conflitto nucleare. Dall'altro, se non vuole farsi 20 anni dentro per terrorismo, non gli resta che passare per un buffone. Il giudice, tuttavia, non sembra molto propenso ad ascoltare le sue ragioni e non si discosta dalla versione sostenuta dall'FSB, secondo cui Edward e i suoi 5 complici costituiscono una seria minaccia alla sicurezza dello Stato. Ciliegina sulla torta, questa versione viene illustrata da un film per la televisione trasmesso sul primo canale russo proprio quando Edward arriva a Saratov. Dopo il suo arresto, c'è stato l'11 settembre e si sente, nel film il Partito Nazional Bolscevico viene presentato come una costola di Al-Qaeda, l'isba dell'Altai come quel campo di addestramento segreto, meta di centinaia di fanatici combattenti, che Edward ha effettivamente sognato, ma al quale la realtà, lui lo sa bene, somigliava così poco. In prigione tutti hanno visto Caccia al fantasma, così si chiama il film. Tutti sanno che il protagonista è Edward e cominciano a chiamarlo Bin Laden, fatto naturalmente lusinghiero, ma anche pericoloso. Saratov è il contrario di Lefortova. In quelle condizioni di estrema promiscuità non si corre certo il rischio di soffrire la solitudine. Nelle celle progettate per 4 persone, spesso ne vengono ammassate 7 o 8. Quando è entrato in quella che gli hanno assegnato, Edoardo ha trovato tutti i letti occupati e, senza protestare, ha srotolato il suo materasso sul pavimento, ritenendo normale che l'ultimo arrivato stia peggio degli altri. Questa umiltà ha fatto buona impressione. Edward ha fama di intellettuale, prigioniero politico e celebrità. 3 motivi per essere giudicato un rompicoglioni supponente, 3 motivi perché le cose si mettano male. Ma Edward si dimostra fin dal primo istante un tipo semplice e diretto che cerca soltanto di sedieć spokojna, di scontare la sua pena in tranquillità, senza piantare grane, senza tirarsela, senza creare problemi né a se stesso né agli altri. Tutti apprezzano questa saggezza da prigioniero esperto, e allo stesso tempo avvertono che sotto i suoi modi pacati è un vero duro. Se vede qualcuno sbrigare una faccenda o preparare un pasto, Edward non è tipo da chiedere stupidamente «posso aiutarti?». Intuisce quel che c'è da fare e lo fa. Evita le parole e i gesti di troppo, non si tira indietro quando ci sono le corvée, divide i pacchi che riceve, rispetta, senza che sia necessario spiegargliele, le regole non scritte che governano la vita della prigione. Non esagera però e fa valere con calma autorità il proprio modo di vedere e fare le cose. All'inizio i compagni restano sorpresi perché non accetta mai una partita a carte o a scacchi. Edward li considera una perdita di tempo. Lui le sue giornate le passa a leggere o a scrivere steso sulla cuccetta. Ma è presto chiaro che non si tratta di snobismo. È fatto così, punto e basta. E questo non gli impedisce di essere sempre disponibile a dare una mano a chi deve scrivere una lettera alla sua ragazza o anche solo risolvere un cruciverba. Una settimana dopo il suo arrivo sono tutti d'accordo. Edward è un tipo a posto.